9 in punto. Buongiorno, buongiorno da Trento, da Gianfranco Fabio, per questa edizione di 9 in punto dedicata al Festival dell'Economia, ottava edizione tra Trento e Rovereto, 4 giorni di dibattiti ed incontri ad altissimo livello, premi Nobel, rappresentanti dell'economia, rappresentanti della politica, domani ci sarà anche il premier Enrico Letta, e un festival appunto che racconta, cerca di raccontare l'economia, cerca anche di dare qualche segnale di soluzione, magari con qualche ottimismo. Buongiorno a quanti ci ascoltano anche oggi. Oggi per i vostri messaggi SMS 349-238-6666 e per le vostre telefonate l'800-800-24-0024. Buongiorno anche ai nostri ospiti, Innocenzo Cipolletta, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'Università di Trento e tra i fondatori del Festival dell'Economia giunto all'ottava edizione. Cos'è cambiato rispetto alla prima edizione? Ma è cambiato innanzitutto che è molto più ricco oggi il festival, stiamo uscendo dalle parole, stiamo andando nelle immagini, nei gesti, quest'anno per la prima volta abbiamo anche il cinema con Marco Nado che ha selezionato 3 film che parlano di temi legati all'economia, ci sarà una serata teatrale, ieri anche Federico Rampini che è un giornalista economista si è esibito in una sorta di performance teatrale, stiamo cercando di portare l'economia che è la vita di tutti i nostri giorni con i mezzi con cui tutti i giorni noi cerchiamo di capire la realtà. Quindi un festival anche multimediale, possiamo dire, che affronta appunto con tutti gli strumenti che ci possono essere, anche con un po' di spettacolo, questa realtà che per molti continua ad essere ostica, quasi ostile ogni tanto, l'economia. Cipolletta ci ha dato anche la presentazione, l'assito di presentare l'altro ospite, che è il professor Marco Nado. Buongiorno Nado. Buongiorno. Marco Nado, professore di economia alla Bocconi, ma è qui anche nella sua veste, come diceva il Cipolletta, di esperto di film che presenta in un nuovo cineforum. Ieri c'è stato il primo, questa sera ci sarà Le mani sulla città. Come mai queste, che film sono? Come mai sono stati scelti, Marco Nado? L'idea, come diceva Cipolletta, era quella di presentare i temi dell'economia attraverso altre arti e attraverso la vita di tutti i giorni. Il teatro da una parte e il cinema dall'altro. Ovviamente nel caso del cinema non si poteva fare una scelta antologica come invece si fa nel caso teatrale e quindi forzatamente la soluzione era 3 film per 3 serate del festival. Il tema del festival è sovranità, limiti e conflitti della sovranità e quindi io ho selezionato 3 film che si collegassero al problema della sovranità in genere, della sovranità popolare, della sovranità del consumatore, dei poteri che influiscono sulla sovranità. I film selezionati che sono presentati in ordine risalendo all'indietro nel tempo, ieri sera era Thank You for Smoking, che è un film sulle lobby, stasera c'è A cena col diavolo, che è un film sul potere in assoluto e sulle classi, sui professionisti della politica, le vecchie volpi della politica che esercitano. Che non è molto cambiata rispetto a 1963, mi sembra, questo film. Nel film sono Talleyrand e Fouché, all'indomani della caduta di Napoleone, ma si possono immaginare coppie di politici dal 1815, che è l'anno del film, al 2013, che è l'anno in corso, più o meno. E domani ci sarà Le mani sulla città, che è un classico dei rapporti fra corruzione. Certo, potere. Ecco, allora entriamo poi nel tema di questo Festival dell'Economia, già annunciato sovranità in conflitto, sullo sfondo c'è il tema dell'Europa, il tema dell'euro, anche perché rinuncia alla sovranità, il fatto che i paesi abbiano rinunciato volontariamente, ovviamente, alla sovranità nella speranza di avere una sovranità maggiore, di avere maggiori opportunità. La sovranità in fondo è un aspetto della libertà, la libertà personale è tale e la sovranità è un po' la libertà dei paesi, la libertà degli stati, dei gruppi economici. Ecco, parlando di sovranità si parla appunto di questa libertà che in teoria può essere infinita, ma in pratica ha bisogno di strumenti per essere esercitata. L'euro, secondo i fondatori, doveva essere uno strumento per dare maggiore prospettive, maggiore solidità, maggiore coerenza anche alla crescita dei paesi europei, togliendo alcuni costi, dando degli obiettivi comuni, dando anche delle regole comuni. Come si è arrivati, dove si è arrivati, lo vediamo tutti i giorni anche nella nostra esperienza, se ne è parlato qui. Io vorrei magari citare un po' i due incontri principali di ieri, quello con Michael Spence, il premio Nobel, per l'economia, e quello con Giuliano Amato. Ecco, su Michael Spence forse Marco Nado può dirci qual è stato il messaggio di Spence a questo Festival dell'Economia nell'ottica europea, qual è la ricetta americana, possiamo dire, che guarda l'Europa. Mike Spence ci ha fatto fare una ci ha fatto un grande affresco della crescita delle economie mondiali. Prima di tutto ci ha fatto vedere che noi europei, noi come Europa, siamo una delle aree e quella che ha perso in termini relativi terreno, perché oggi ci sono tre grandi aree, che sono l'area asiatica, l'area americana e l'area dell'America Latina. Abbastanza, se ricordo bene le cifre che ha fatto vedere, abbastanza equivalenti oggi, ma la velocità con cui siamo arrivati a questo risultato è ovviamente incomparabilmente diversa. Ci ha messo vari secoli, la Cina ha qualche decennio. La Cina ha qualche decennio, insomma, e quindi noi come paesi avanzati in genere siamo quelli che hanno la velocità più bassa, e noi europei rispetto ai paesi avanzati siamo quelli che hanno la velocità più bassa. Naturalmente sono trasformazioni di lungo periodo. Un dato interessante che ci ha fatto vedere Spence ieri è che la Cina, come si sa, fra pochi anni in termini di prodotto lordo supererà gli Stati Uniti. Beh, anche perché sono 1.300 milioni di persone. Esatto, perché in termini di prodotto pro capite sono a un quinto degli Stati Uniti, e ci metteranno, con le stesse velocità, almeno tre decenni, ha detto Spence, per arrivarci. Insomma, quindi facciamo attenzione a distinguere fra i valori assoluti, perché il PIL è il prodotto degli occupati, per il prodotto per occupati. Ecco, ma per questo nostro vecchio continente, per questa nostra vecchia Europa, qual è la ricetta che l'economista può suggerire? Spence non è precisamente dato ricette, perché tendeva più a proporre diagnosi, diciamo, ha fatto vedere però due cose importanti da cui si possono, a mio parere, tirar fuori due ricette. La prima è il deficit di investimento che i paesi sviluppati hanno avuto negli ultimi anni. Lui aveva coordinato un paio di anni fa una grossa ricerca in cui faceva vedere che rispetto dagli anni 70, da metà degli anni 70 in poi, il tasso di investimento ancora dei paesi sviluppati, non dei paesi avanzati, non di singole regioni, era sceso di quasi 10 punti percentuali in media, e faceva il conto di 40 trilioni di dollari di investimento che mancavano all'appello. E diceva anche, se attenzione, perché se vogliamo recuperare in termini di crescita dobbiamo investire. Questo l'ho ripetuto anche ieri. Certo, la ricetta può essere quella di investire, il problema è vedere come. Allora magari vediamo un altro importante incontro di ieri, è stato quello con Giuliano Amato, che è stato coordinato da Innocenzo Cipolletta. Il messaggio di Giuliano Amato, magari se ha dato qualche ricetta guardando un po' al futuro dall'alto della sua esperienza anche di politico europeo, perché lui tra l'altro ha fatto una battuta dicendo: voi italiani pensate in un modo, noi europei pensiamo in un altro. Sì, evidentemente anche ieri con Giuliano Amato una gran parte del suo intervento ha riguardato l'analisi e la diagnosi, però un po' incalzato dalle domande ha anche risposto su quali possono essere le ricette. Per Giuliano Amato la ricetta per l'Europa è il ritorno allo spirito e alla prassi comunitaria, nel senso che l'Europa inizialmente, quando ha cominciato a operare, dava poteri alla Commissione, che era quindi un organo tecnico ma anche politico, e questi poteri alla Commissione consentivano alla Commissione di elaborare progetti e soluzioni che avessero una visione europea. A questo punto il Consiglio dei Ministri cercava, ciascun paese, di tirare un po' la coperta verso se stesso per difendere i propri interessi, ma manteneva lo spirito comunitario. Piano piano invece siamo transitati, questa è l'analisi di Giuliano Amato, siamo transitati in un sistema europeo di governo intergovernativo, nel quale la Commissione non conta più nulla, è una specie di segreteria che registra quello che i governi decidono, e i governi, quando si presentano a questo Consiglio dei Ministri europei, presentano solo gli interessi personali, diventa una disputa tra interessi personali e alla fine si trova un compromesso, ma il compromesso è tra interessi nazionali e non ha più questo contenuto europeo che prima aveva. Quindi da parte sua questa è la prima raccomandazione. La seconda, che un po' aleggia su tutto questo festival, che parlando di sovranità in conflitto tutti quanti hanno pensato, tutte le introduzioni sono state: qual è il governo internazionale, qual è il governo europeo migliore, come fare a essere tutti insieme nella stessa barca. La principale raccomandazione è: mettete ordine a casa vostra. Sarà perché siamo in Italia, ma tutti quanti hanno detto: prima pensate a risolvere i vostri problemi, non pensate che siano gli altri a risolverli, risolvete i vostri problemi, poi vedrete che la governance si trova. Ecco, ma con l'euro l'Europa si è data uno strumento unitario che prefigurava anche un'unità politica, un'unità appunto che raccogliesse anche i frutti di questa capacità dei paesi di mettersi insieme, ma poi l'euro è rimasto in fondo orfano, è rimasto orfano di una realtà politica che, come diceva appunto lei adesso, è una realtà fatta di singoli paesi sommati insieme, non uniti insieme. Sì, ma proprio l'euro è stata una delle ultime, diciamo, misure di carattere, se vogliamo, comunitario. Dobbiamo ricordarci che l'euro di fatto nasce alla metà degli anni 80 come concetto, viene definito negli anni 90, implementato nel 2001. E quello fu un progetto europeo. Poi però piano piano siamo scivolati nella intergovernativo e quindi a questo punto l'applicazione dell'euro è stata fatta attraverso una sorta di mercanteggiamento tra i diversi paesi, ognuno attento ai propri interessi e nessuno che ha pensato all'Europa. Ecco, magari qualcuno più capace di difendere i propri interessi e qualcun altro meno capace, o certo, qualcuno un po' più uguale degli altri, come dire. E questo, anche questo, viene alla discussione: mettete ordine a casa vostra. In Europa e nel mondo abbiamo visto che i paesi che sono più in equilibrio, che hanno meno problemi, hanno una grande capacità di battere i pugni sul tavolo, mentre quelli che hanno bisogno di risolvere i loro problemi possono avanzare qualsiasi pretesa, non vengono presi in considerazione. Ecco, Marco Nado, su questa analisi. Concordo pienamente, perché quando si è deciso di avviare l'euro, allora erano 8 paesi, hanno rinunciato a un pezzo, forse il pezzo più alto della sovranità, che è quella monetaria, che da sempre, no, battere moneta è sempre stato connaturato al concetto di sovranità. Ma sapevamo benissimo, il Consiglio europeo che ha deciso tutto era di maggio del 98, quindi ormai 15 anni fa esattamente, l'euro nasce il 1 gennaio del 99, e sapevamo benissimo che avevamo davanti un periodo in cui avremmo dovuto fare di più. Era chiarissimo in tutte le dichiarazioni. Quello non è stato fatto e alcuni paesi, a cominciare da Francia e Germania per esempio, hanno violato le poche regole comuni per mettere ordine in casa propria che ci eravamo dati. E sono emersi così gli interessi nazionali, e ogni decisione è stata una gara al compromesso, quindi inevitabilmente al ribasso. Cioè, in un momento, per ricordare Giuliano Amato ha partecipato a quella che era l'ambizione di fare una Costituzione europea, e in una lettura a Bologna subito dopo disse: ragazzi miei, questo era il massimo che si poteva, abbiamo tirato l'elastico fino al punto estremo del consenso politico. Però è stato una certo, ma non è stato anche il fatto che l'euro è stato concepito in un periodo di crescita, anche se per l'Europa non certamente dirompente, comunque gli anni 90 e i primi anni 2000 sono stati un periodo in cui le economie crescevano. Quindi uno strumento adottato in un momento di crescita si è rivelato poi incapace di affrontare un momento di crisi. No, questo credo che sia un elemento presente, ma non il più importante, anche perché ricordo che dal punto di vista politico l'euro è stato anche in qualche modo la contropartita dell'unificazione europea, dell'unificazione tedesca, certo. Per dire, no? E quindi il tentativo di diluire una Germania riunificata e più grande e più potente in una Europa più forte. Quello che si doveva fare era sfruttare il clima favorevole che l'euro ha creato, indipendentemente dal ciclo economico, perché tutti abbiamo beneficiato anche troppo della riduzione del livello dei tassi di interesse. Certo, Giuliano Amato ricordava appunto che all'inizio i tassi di interesse erano più o meno uguali per tutti e l'Italia forse aveva uno spread di 20 punti, adesso ne ha di 260. Sì. E quindi su questo fronte, rapidamente Cipolletta, la sua impressione? Per chiudere questa, poi dopo diamo lo spazio alla pubblicità. Ma io vorrei ricordare che comunque questi ultimi 15 anni sono stati anni di crescita mondiale paurosa. Abbiamo avuto la crescita più forte mai conosciuta. Il mondo cresce del 4-5%, quindi non è vero che l'euro è stato implementato in fase di bassa crescita. Il mondo, se lo prendiamo tutto certo. Insieme, siamo cittadini mondiali, cresce del 4-5% l'anno, non era mai successo. Cresce anche l'Africa subsahariana del 4%. L'anno. Quindi il problema è un problema europeo all'interno dell'Europa, perché fuori aveva tutte le condizioni per poter crescere. 9 in punto. Rieccoci con 9 in punto, rieccoci da Trento, rieccoci dal Festival dell'Economia. Proprio un messaggio accenna al fatto che siamo a Trento e dice: la prossima volta organizzate il Festival dell'Economia a Venezia, così potete buttare a mare tutti i politici. E vabbè, questo è un messaggio, diciamo, un po' provocatorio, lo accettiamo così come tale, così come peraltro leggendo i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, così come ricordo il numero verde 800-24-0024 per le vostre chiamate. Ecco, devo dire che la grande maggioranza dei messaggi sono tutti molto, molto critici sul fronte dell'euro. Dice: l'euro è stato un errore economico, non ha mai funzionato, non funzionerà mai, prima ne usciamo meglio è, non si può resistere a queste condizioni all'interno dell'Europa, l'Italia deve riprendere la propria sovranità monetaria, quando c'era la lira abbiamo avuto il miracolo economico e così via. Quindi ecco, messaggi diciamo che esprimono un sentimento comune che rispetto a 10 anni fa, quando forse l'Italia era sicuramente un paese europeista, sicuramente sperava nell'Europa, adesso forse la maggioranza vede nell'euro un problema, forse un po' come scapolo espiatorio, si cerca di dare la colpa a qualcuno della situazione difficile in cui si trova il nostro paese. Allora perché è cambiata questa sensazione, Innocenzo Cipolletta? Perché l'opinione pubblica ha questa impressione che l'euro sia il problema? Ma innanzitutto perché non ha memoria, ed è normale perché ognuno ha i suoi problemi e quindi non sta pensando a quello che è successo. Ma il miracolo economico è avvenuto con l'euro, paradossalmente, perché il miracolo economico è avvenuto negli anni 50 e 60, quando le nostre monete erano fortemente vincolate l'una con l'altra, non si muovevano, quindi di fatto avevamo una moneta unica in tutta l'Europa e appena un paese sgarrava con la sua bilancia di pagamenti, aveva un disavanzo eccessivo o anche minimo, doveva prendere dei provvedimenti immediati, strangolare l'economia, si diceva il cappio monetario che serviva a strangolare l'economia, e noi attraverso questo abbiamo avuto per esempio nel 1962-63 una feroce recessione che bloccò l'economia italiana. Avevamo l'euro e abbiamo avuto il miracolo economico perché era un periodo completamente diverso. L'euro è una ottima soluzione ed è una soluzione che va difesa totalmente. Ancora qui mancano dei ricordi. Gli anni 80 e 90, quando noi svalutavamo e ci risolvevamo alcuni problemi, sono stati gli anni più drammatici, perché noi in quei periodi pagavamo tassi di interesse che sono arrivati fino ad essere il 20-25%, e siccome i tassi di interesse li pagava lo Stato per indebitarsi, perché il nostro Stato è indebitato, noi pagavamo le tasse allo Stato non per avere dei servizi che ci servivano, trasporti, sanità, giustizia e quant'altro, ma per pagare le rendite dei capitalisti che avevano i soldi per poterli prestare allo Stato. Quindi era il peggiore dei mondi, eppure lo rimpiangiamo, perché il passato sembra sempre migliore agli occhi degli altri, il presente sembra orribile. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia le cose e pensare al futuro e non al passato. Ecco, proprio guardando però ancora per un attimo al passato, un altro messaggio ci dice: ma nel periodo dell'euro, nei vent'anni in cui in pratica c'è stata la moneta unica, da Maastricht in poi, i bilanci italiani hanno sempre peggiorato. Anche questo non mi sembra vero, perché il deficit italiano c'è stato accumulato negli anni 80 e inizio degli anni 90, poi è rimasto stabilizzato, e l'euro in fondo, con i bassi tassi di interesse, ha permesso la sostenibilità del debito italiano. Esattamente, il debito italiano è cresciuto ininterrottamente fino alla fine degli anni 90, e la crescita, ripeto, del debito italiano, se lo andiamo a scomporre come fattori, la principale fattore di crescita del debito è stato il pagamento degli interessi sul debito, perché erano tassi reali di interesse giganteschi, per cui il debito che abbiamo accumulato dal 1980 in poi è in quasi totalità derivante dal pagamento di interessi che avevamo per la svalutazione della lira e per l'inflazione che importavamo. Quindi era una situazione caotica all'interno del quale il fallimento era automatico, e noi continuavamo a pagare tasse allo Stato per non avere niente indietro. Non si può rimpiangere quel periodo. Ecco, Marco Nado, su questo fronte, dando ancora un'ultima occhiata alla storia, poi cerchiamo di guardare un po' anche al futuro. La storia insegna in fondo che la moneta unica può essere la soluzione. Sono d'accordo con Innocenzo quando dice che la moneta unica è stata per noi una volta una grande opportunità sfruttata, anche se non si chiamava così, ma comunque viviamo in un mondo di cambi praticamente fissi. E l'altra volta, cioè proprio con l'avvento dell'euro, è stata un'opportunità che abbiamo buttato al vento. Come noi, la Grecia o la Spagna o altri paesi. Forse la Germania è l'unico paese che fa eccezione da questo punto di vista, però il fatto di essere in compagnia non ci risolve il problema, perché adesso ciascun paese è di fronte alle proprie specifiche debolezze. E cosa dico quando parlo di opportunità che abbiamo gettate al vento? Una è stata quella che, tutto sommato, la grande riduzione dei tassi di interesse e quindi l'alleggerimento del debito pubblico non è stato usato per riqualificare la spesa, se vogliamo guardare a quella parte, alla parte pubblica, e quindi ci troviamo con ancora spese inutili, eccetera. Ma anche dal punto di vista delle trasformazioni che volevamo fare, ci siamo trovati con risultati deludenti. Pensiamo alle privatizzazioni, per esempio. Le privatizzazioni sono un altro caso in cui abbiamo sperato che, sostituendo il soggetto pubblico al soggetto privato, le cose migliorassero drasticamente, e così non è stato. Basta leggere quello che ha dichiarato Romano Prodi sulla storia dell'Ilva. No, certo. Quando dice abbiamo tenuto i debiti, abbiamo creato una bad company, abbiamo dato un gioiello industriale ai privati che hanno avuto profitti elevati, e però non hanno investito in quello. Questo è servito solo a dividere le colpe tra i pubblici prima e i privati poi, che però sono le stesse. Esattamente, questo è un altro esempio di occasioni certo. Sprecate, e nel mondo bancario possiamo anche trovarne qualcuno, magari in Toscana, insomma. Ecco, mentre continuano ad arrivare i messaggi a 349-238-6666, e devo dire che il 95% auspicano un'uscita dall'euro, poi ne parliamo più avanti, ma sentiamo anche una telefonata. Ruggero da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io chiamo perché ho sentito una serie di cose su cui non sono assolutamente d'accordo. Primo tra tutti, adesso dire che noi paghiamo tassi più bassi perché siamo nell'euro è assolutamente fuorviante. Noi paghiamo tassi più alti da quando nell'81 c'è stato il divorzio tra la banca centrale e il tesoro, perché invece di finanziarsi uno Stato a scusate ma sento eco, quindi faccio fatica. Sì, sì, ci dica rapidamente, già la domanda è chiara comunque. Allora, noi ci finanziavamo fino all'81 al tasso che riceveva lo Stato italiano, dall'81 in poi col divorzio ci siamo finanziati allo Stato ai tassi di mercato. In più non c'è nessuna volontà di coordinamento nei paesi europei, perché per esempio la Germania, per evitare l'inflazione, ha sempre tenuto l'inflazione sotto il 2%, che è il parametro della BCE. Quindi mi sembra del tutto fuorviante quello che state dicendo. Perché, la ringrazio dell'osservazione, bisogna stare anche ai dati di fatto. Lei parla appunto del divorzio tra Banca d'Italia, tra il governo e la Banca d'Italia. Prima la Banca d'Italia era obbligata quasi a acquistare i titoli di Stato, però questo è stato fatto non per un vezzo economico, ma per combattere l'inflazione, per evitare che l'inflazione continuasse sulla strada. Ricordiamo che avevamo un'inflazione che è andata anche oltre il 20%, ma io lascerei parlare il professor Cipolletta su questo. Sì, sì, il divorzio è stato sicuramente la causa dell'aumento dei tassi di interesse, ma è stato anche la soluzione contro la inflazione galoppante che abbiamo avuto negli anni 70 dopo la prima crisi da petrolio. Noi avevamo un'inflazione che andava al 20-25%, che si innescava in una svalutazione della lira che era ancora più forte, in un circuito nel quale il fallimento era immediato. Tutti i paesi alla fine degli anni 70 decisero di rialzare i tassi di interesse e di cominciare a bloccare l'inflazione. L'Italia fu uno degli ultimi paesi a aderire a questa soluzione. Con il divorzio della Banca d'Italia abbiamo cominciato ad avere tassi di interesse più elevati. A questo punto noi avremmo dovuto cominciare a mettere ordine nella finanza pubblica, perché i tassi di interesse elevati servono a far capire agli stati che indebitarsi non è una cosa gratis, e quindi bisognava cominciare a alzare le tasse e a ridurre la spesa pubblica per rimettersi in ordine. Non lo abbiamo fatto, e quindi noi abbiamo avuto dei tassi di interesse che ci hanno cumulato un debito pubblico, ma la responsabilità resta nostra, non resta di nessun altro. Ecco, un altro tema, diciamo un tema rituale, forse fin troppo rituale, che però viene ancora a galla nei messaggi che si stanno arrivando, è quello del fatto che l'euro avrebbe raddoppiato i prezzi. Quando è entrato in vigore l'euro, il cambio reale era 1936, il cambio effettivo è stato di 1000 lire per un euro, e quindi tutti hanno raddoppiato i prezzi. Questa è un po' una leggenda metropolitana. Ovviamente qualche speculazione ci può essere stata, ma di fatto negli anni, nell'inizio degli anni dell'euro, il cambio effettivo è stato quello praticato. Però su questo fronte, Marco Onardo, questa sensibilità, in fondo la sensibilità, diciamo così, della gente, dell'opinione pubblica, è tale che questo fatto del raddoppio dei prezzi è rimasto come una verità collettiva. Ovviamente i dati ufficiali raccontano una storia completamente diversa. Il punto di collegamento fra questa sensazione collettiva e i dati ufficiali è che il dato ufficiale è fatto, come noto, su un paniere di prezzi, certo. È calcolato anche in un modo molto dettagliato, sono migliaia di rilevazioni ogni mese che vengono fatte per calcolare questo paniere, che poi va a finire nel calcolo dell'inflazione europea. E noi siamo legati però alla vita di tutti i giorni, e ci sono delle cose che in effetti sono raddoppiate di prezzo. Io quello che chiamo il cambio della pizza, cioè la pizza che costava 5.000 lire è passata a 5 euro, no? Ecco, ovviamente la pizza però fa parte i prezzi medi dell'uso del telefono, del telefonino, sono diminuiti sensibilmente, e questo poi entra nel paniere insieme alla pizza e si combina. E perché in alcuni settori questo è avvenuto? Non a caso si tratta di settori di servizi in cui ci sono degli elementi, le licenze, ed altri tipi di regolamentazione che limitano la concorrenza, e quindi impediscono che succeda alle pizzerie quello che succede ai telefoni. Ecco, quindi in un certo senso la sensibilità, diciamo, complessiva è anche giustificata da alcuni fatti, ma non dobbiamo prendere alcuni fatti come verità generale. Certamente problemi ce ne sono stati, l'euro non ha risolto tutti i problemi, ma però comunque ha avviato qualche soluzione, e anche se è difficile fare la storia con i se o con i ma, non possiamo dire come sarebbe stato se non avessimo l'euro. 9 in punto. Buongiorno, buongiorno ancora da Gianfranco Fabi, da Trento, dal Festival dell'Economia. Stiamo parlando dell'euro con il professor Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Università di Trento, con il professor Marco Nado dell'Università Bocconi. Stiamo parlando dell'euro, delle prospettive, dei problemi, tanti problemi che abbiamo anche secondo molti ascoltatori, ma sicuramente con qualche verità causati anche dall'euro o da come l'euro è stato vissuto dai paesi. E stiamo adesso in questa ultima parte, vogliamo guardare un po' in avanti cosa possiamo fare, ma prima di guardare davanti sentiamo un altro ascoltatore, Mario da Prato, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Prima di tutto mi presento, sono Mario Tognocchi, sono segretario di un'associazione di cittadini per la giustizia fiscale e scaricare tutto tutti. Le osservazioni che volevo fare sull'euro sono due, semplici. Una, la prima riflessione, pensare che l'euro è niente altro che un'unità di cambio, un'unità di misura. Io sono termotecnico, progetto impianti di riscaldamento per le case. Prima si usavano le chilocalorie, ora si utilizzano i watt, ma il calore è lo stesso. Oggi abbiamo un'unità di misura che ci consente di sapere che i soldi, 1000 euro dati a una persona in Italia, sono 1000 euro dati a una persona in Germania, e questo consente a noi di vedere negli altri paesi come siamo messi rispetto agli altri paesi, cioè ci ha aperto la visione e ci consente di misurarci con il mondo. Immaginare di tornare all'unità di misura solo italiana ci rende l'idea di quanto sarebbe piccola e difficile, e quanto i politici potrebbero un'altra volta ricominciare a inventarci storie. Questa è la prima riflessione importante che vorrei passasse. La ringrazio. Rapidamente la seconda. La seconda è semplice, che è sempre sulla questione dell'unità di misura. Quando io misuro 1000 euro di stipendio a un italiano, 1000 euro di stipendio in Germania, sono diverse se non riconosco quali sono le spese che queste persone sostengono. Intendo dire, il reddito deve essere misurato sul reddito netto, su quello che io posso comprare per la casa, per il riscaldamento, per far studiare i miei figli. È evidente che quelle 1000 euro, se io le misuro sul lordo, sembrano uguali, mi tassano sulle 1000 euro, ma io magari 1000 euro li ho finiti perché ho pagato l'università, per esempio, io questo mese a mia figlia. Questo è grazie un mille, grazie. Grazie per queste osservazioni, mi sembrano molto, molto logiche e molto sagge. Vi leggo un messaggio solo per fare un'altra osservazione. Un ascoltatore dice: il giornale costava 1200 lire, oggi costa 1,20. Sì, ma sono passati 20 anni anche, quindi cerchiamo di valutare l'inflazione, che noi di solito la valutiamo su base annua. Se la valutiamo su base di 20 anni, forse le cose sono diverse. Paolo da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io volevo solo soffermarmi sulla telefonata che ha fatto un altro ascoltatore in merito al divorzio della Banca d'Italia e il Tesoro del 1981, alla risposta che ha dato il professor Cipolletta. A me non mi sembra estremamente adeguata a quello che sono stati fatti. Vi ricordo che altri economisti, e le faccio l'esempio del professor Nino Belloni, hanno un'idea completamente diversa su come sono andati i tassi, su come sono saliti i tassi in merito a questo divorzio, che è stato poi un dramma per tutto il popolo italiano. Ecco, la ringrazio di questa osservazione. Indubbiamente sugli economisti si possono dire tante cose, c'è una famosa battuta che dice: prendete due economisti, avete tre soluzioni. E quindi però la storia può insegnare qualcosa, che la storia è fatta di fatti, non è fatta solo di interpretazioni. E quindi guardando sì, un po' ma anche c'è il problema del pensiero unico a livello economico, e dove in genere è prevalente, ma non vengono raramente invitati economisti che hanno un'opinione diversa da quello che è il pensiero dominante. La ringrazio di questa osservazione, non penso che valga per Radio 24, dove gli economisti passano tanti economisti dai nostri programmi, e i nostri programmi sono aperti appunto anche agli ascoltatori che hanno idee diverse, idee su cui si può discutere, su cui è giusto discutere. Ma io vorrei occupare questi ultimi 5 minuti di tempo per guardare, non tanto per rivedere il passato, che ognuno poi di noi può studiare, può leggere nella sua dimensione, ma per guardare un attimo al futuro. E allora, per rispondere realisticamente alla domanda di fondo, è possibile pensare di uscire dall'euro come soluzione? E i costi di questa possibile uscita possono essere sopportabili per affrontare i grandi problemi dell'Italia, oppure sarebbero enormemente superiori ai vantaggi teorici che possono arrivare? La domanda è ovviamente provocatoria, però per rispondere proprio alla domanda che nasce un po' dalla sensibilità popolare, il futuro può rappresentare, professor Cipolletta, può esserci qualcosa in cui si ritorna alla lira? Ma ci siamo andati vicino nel corso dell'anno passato, in particolare perché c'è stata una forte speculazione sulla speranza, o qualcuno ha puntato sulla rottura dell'euro, e questo ha portato a una situazione di tale tensione che rischiava effettivamente di realizzarsi. In economia alcune aspettative tendono a realizzarsi se le operazioni degli operatori finanziari vanno tutte nella stessa direzione, ed è quello che è successo nel 2012. Per fortuna, secondo me, ne siamo usciti. L'uscita dall'euro è teoricamente possibile, i costi sono estremamente elevati, molto maggiori dei costi che noi avremmo se non fossimo mai entrati nell'euro. Sono passaggi che hanno una sorta di irreversibilità, e io credo che non convenga assolutamente uscire dall'euro, non solo perché ci aumenterebbero i tassi di interesse, ma perché ci ritroveremmo con una moneta che si svaluterebbe in continuazione, e quindi con processi inflattivi che finirebbero per levare tutti i soldi ai più poveri, ai più esposti in Italia, e trasferirli ai ricchi, alle persone che possono investire i soldi all'estero. Quindi sarebbe un disastro da evitare. Quindi si dice che l'inflazione è la peggiore, la più ingiusta di tutte le tasse. Assolutamente, è quella che leva i poveri dai ricchi. E quindi evitare l'inflazione è uno degli obiettivi principali di ogni paese, e anche uno degli obiettivi delle politiche monetarie, con questa divisione, peraltro il divorzio si è ricordato qui, ma con l'autonomia degli istituti di emissione, che non a caso in tutti i paesi sono autonomi, più o meno ovviamente autonomi dai governi, perché i governi hanno una tendenza alla spesa, invece la moneta, essendo un bene collettivo, è un bene che va difeso. Ecco, professor Onado, guardando in prospettiva realisticamente, l'ipotesi di uscire dall'euro è un'ipotesi che può essere presa in considerazione? Io credo che sia significativo che in questo festival la conferenza finale di un premio Nobel si chiuda con questa domanda, perché il dubbio fino a qualche anno fa non sarebbe neanche venuto. Il punto però è che uscire dall'euro è tecnicamente possibile, forse, ma economicamente disastroso in una forma, nelle forme che possiamo immaginare, perché per due motivi. Uno nostro: che cosa ne facciamo del debito che abbiamo accumulato nei confronti dell'estero? Cioè, se svalutiamo la nostra moneta, dovremo lavorare, e la nostra moneta del 100%, diciamo, dovremo lavorare il doppio per ripagarla, no? Perché ovviamente dall'estero non ci fanno sconti. Quindi dobbiamo capire che cosa fare del debito accumulato. Il secondo problema è un problema europeo. Se escono grandi paesi che hanno contribuito dal 1956, dal Trattato di Roma, alla costruzione europea, non solo crolla l'euro. Ecco, questa è una prospettiva, diciamo, una prospettiva in parte catastrofica. Dobbiamo però guardare realisticamente a queste cose e direi non cercare al di fuori delle soluzioni, cercando di buttare la colpa sempre sugli altri. Indubbiamente colpe ce ne sono, ci sono colpe della classe politica, ci sono colpe della classe economica, ci sono colpe anche degli economisti che magari non hanno messo in chiaro completamente le cose. Non siamo in una società perfetta, siamo in una società perfettibile in cui ognuno può avere un proprio compito, una propria responsabilità nel rendere migliori le cose, ma per rendere migliori le cose bisogna anche conoscere, diceva Inarti, conoscere per deliberare, cercare di conoscere, dibatterle, anche avere opinioni diverse è certamente importante. Ci fermiamo qui, non abbiamo risolto praticamente nulla, ma abbiamo cercato di discutere, cercando di essere più coscienti della realtà in cui siamo, come vuole essere questo Festival dell'Economia di Trento. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia e Valentina Magri in redazione, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, ringrazio il professor Marco Nardo e il professor Innocenzo Cipolletta di essere stati con noi. Grazie. Buon Festival dell'Economia e buona giornata. Ricordati! Mancano 31 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.